L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano, come sempre, con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Unione Europea, un programma in collaborazione con Euronet Plus, il network di tante radio, di tante voci, per raccontare la nostra Europa da tanti punti di vista diversi. Le coordinate: euronetplus.eu, il sito, oppure ancora Euronet Plus R24 sia su Twitter che su Facebook, oppure gli stessi account ma a mio nome, le piazze virtuali dove trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, quello di oggi ha una partenza molto particolare perché tenteremo di raccontare l'Europa dal punto di vista delle farfalle. Milos años, milos contratiempos, nada me separo de ti. Contigo me quedo y me quedo de por vida. Ya pateamos las piedras del camino, el universo es mezquino comparado con lo que me das. Muy Perché? Perché l'Europa è politica, l'Europa è economia, ma l'Europa è anche ambiente, è territorio, è luogo in cui si vive. E l'allarme che arriva questa settimana direttamente dall'Agenzia Europea per l'Ambiente è un allarme che fa pensare. Le farfalle sono dimezzate in soli 20 anni all'interno dell'Europa. Uno dice, vabbè, è una notizia. E allora? Allora, questo è un indice gravissimo della situazione che sta correndo il nostro territorio. È stata fatta questa importante ricerca e volevamo capirne di più, perché siamo certi che sono proprio notizie come queste che non devono essere prese sotto gamba per chi crede nel futuro dell'ambiente, nel futuro del territorio, nel futuro della nostra casa, che oggi è la nostra casa, si chiama Europa. E con noi c'è Katarzyna Biala, che è project manager dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, una delle persone che ha lavorato a questa importante ricerca. Ciao Katarzyna, buon sabato. Ciao. Buon sabato e grazie mille per questo invito. Grazie a te. Sicuramente ho sbagliato la pronuncia del nome, vero? Sì, ma non c'è problema. Mi chiamo Katarzyna Biała. Ah, ok, dai, insomma, eravamo quasi lì. Sì, molto vicino. Ascolta, ci puoi raccontare da tecnica, da esperta, qual è il valore di questa ricerca? Qual è il significato che c'è dietro a questo campanello d'allarme che avete lanciato? Sì, certo. Perché veramente abbiamo appena pubblicato questo rapporto che esamina lo stato di salute di farfalle in 19 paesi europei. Sì. Ma per preparare questo rapporto abbiamo lavorato con tantissimi ricercatori, ma anche con le organizzazioni non governative. E la cosa molto importante è che c'erano anche tantissimi volontari che hanno contato il numero di farfalle, veramente migliaia di persone. E perché era una presenza sul territorio proprio per andare a contare fisicamente le farfalle? Sì, fisicamente, questo è molto importante. Mm-hmm. Ecco, e il risultato di questo lavoro qual è stato? Sì, come hai detto prima, abbiamo trovato che in 20 anni le popolazioni di farfalle si sono quasi dimezzate e questo significa una drammatica perdita di biodiversità questo è preoccupante, perché certo che le farfalle sono belle da osservare, ma è molto importante anche che forniscono un servizio molto importante, impollinazione. Mm-hmm. Quindi la scomparsa delle farfalle è un indice di qualcosa di più grande, di qualcosa di più grave? Sì. La perdita di biodiversità, la perdita di altri insetti che provvedono questa impollinazione. Non solo in habitat naturali, ma anche gli ecosistemi importanti per l'agricoltura. Mm-hmm. Questa attività è essenziale per, per sopravvivere con la produzione agricoltura in Europa. Certo, chi è il colpevole numero uno? È l'agricoltura, sono i pesticidi, è l'inquinamento in generale? Sì, sì, sì. Allora, la causa principale è la perdita degli habitat, ma perché? Perché il primo fattore negativo, possiamo dire, è l'intensificazione di agricoltura. Per esempio, dove abbiamo queste monoculture di cereale, e dove l'habitat diventa sterile per le farfalle. Ma c'è anche un altro fattore negativo, e questo è l'abbandono di alcuni terreni, per esempio di prati in montagna oppure in regioni paludosi, specialmente dove la produzione agricoltura non è redditizia. Mm-hmm. E questo abbandono è spesso seguito da un incrocio di boschi, dove non ci sono più le piante che sono importanti per la sopravvivenza di farfalle. Mm-hmm. Ecco, il compito dell'agenzia immagino sia quello di studiare, di fotografare, di appunto stilare un rapporto, ma date anche sanzioni, date indicazioni sulla strada da intraprendere? No, non diamo, il nostro compito consiste nel fornire informazioni sull'ambiente, informazioni valide e indipendenti. Possiamo dire che siamo una fonte di informazione di primaria importanza per coloro che si occupano dello sviluppo, dell'adozione, dell'implementazione e della valutazione delle politiche ambientali, sì, ma anche per il pubblico in generale. Attualmente noi abbiamo 33 paesi membri e i nostri clienti principali sono le istituzioni dell'Unione Europea, ma anche i nostri paesi membri. Ho capito. Diamo il sito, che è www.eea.europa.eu, che è il sito ufficiale dell'Agenzia, sì, Europea per l'Ambiente. E Katarzyna, grazie davvero per il tuo contributo. Oggi andrai in giro a cercare farfalle? Sì, certo. Certo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie davvero a te e a tutto il team che ha collaborato a questo importante lavoro. Ciao e buona estate. Grazie mille, grazie mille. Europost-it. Incredibles, un viaggio tra le piante edibili. Temete di finire un giorno come il protagonista di Into the Wild? Niente paura! I giardini botanici reali di Kew alle porte di Londra organizzano Incredibles, una serie di incontri per riconoscere le piante commestibili. Per tutta l'estate fino al 3 novembre, gli esperti botanici di Sua Maestà vi illustreranno le proprietà nutrizionali di erbe, frutti, fiori e foglie provenienti dai quattro angoli del mondo. Grazie a workshop, picnic, tea party, lezioni di giardinaggio e degustazioni, avrete la possibilità di viaggiare alla scoperta dei più sorprendenti vegetali edibili del mondo. Per conoscere il programma, visitate il sito kew.org. Ci facciamo aiutare da Santana per entrare nel prossimo argomento. Due volte all'anno Eurobarometro, la consueta ricerca che tasta un po' il polso degli europei, pubblica i suoi dati. Questa settimana ci sono state un po' di anticipazioni. Sono numeri, sono tendenze, si cerca di fotografare un po' quello che è l'umore. Quando ci sono i numeri, poi si cerca di fare una sintesi. La sintesi estrema di questi dati potrebbero essere: i cittadini amano l'Europa. Questa è un po' la novità. Anche in Italia è cresciuto di diversi punti la dichiarazione di sentirsi europei, però disprezzano l'euro. Per avere un commento e per avere una fotografia un po' più dettagliata di questi dati, abbiamo invitato Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Ciao Antonio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Valgono i numeri per misurare per misurare l'Europa, per fotografare l'Europa? Sono attendibili, secondo te? Sono un dato reale? Beh, insomma, naturalmente i numeri riferiti ai sondaggi sono per definizione piuttosto evanescenti. Naturalmente colgono e esprimono linee di tendenza sulle quali è bene che i politici, i governi, gli attori sociali ragionino. Anche tra l'altro siamo non ancora in fase di campagna elettorale per le elezioni europee della primavera 2014, però insomma ci siamo quasi lì. Arrivati in quella zona. Certo, ecco, tra i tanti numeri pubblicati in questo step di Eurobarometro, secondo te quali sono quelli più significativi? Ma è evidente che in linea generale il risultato, diciamo, di fondo è che se è vero che 6 cittadini europei su 10 si sentono europei a 360 gradi, che vogliono sapere di più dei loro diritti, che chiedono alla politica di essere in sostanza più europea, tra virgolette, è anche vero che se si va a vedere il dettaglio, naturalmente l'opinione favorevole o sfavorevole all'euro rappresenta, diciamo così, l'altra parte della medaglia. È vero che i dati sono stati raccolti in primavera, sì. Il precedente Eurobarometro, il precedente sondaggio era stato fatto in autunno, quindi distanza di 5-6 mesi. In primavera la maggioranza assoluta degli europei era a favore dell'euro, 51%, tutti contenti, però è un fatto che rispetto all'autunno scorso l'opinione favorevole alla moneta unica è peggiorata, è diminuita, è calata di 2 punti percentuali. Uh-huh. Il 42% si oppone all'euro, sempre in primavera rispetto all'autunno, con un aumento del 2% in più rispetto a qualche mese prima. Certo. Quindi si è a favore. Un po' è un'opinione favorevole un po' scricchiolante. Anche se io ho dato una lettura positiva un po' a questa forbice, perché forse finalmente però c'è anche un po' una distinzione tra quello che è l'Europa e quello che è l'euro, perché per troppi anni le due cose forse si sono accavallate. Ma mi permetterei di dire che forse il problema io lo vedo forse un po' rovesciato. È proprio perché i due piani, le due dimensioni non si accavallano che ha origine la crisi dell'euro. La cosa interessante non è il dato generale, certo. È che si va a vedere per esempio il paese per paese, in Francia il consenso all'euro perde 7 punti percentuali, in Olanda perde 7 punti percentuali, in Spagna ne perde 11 punti percentuali, pur attestandosi sulla maggioranza della popolazione, certo. 2% a favore dell'euro. Questo vuol dire, allora in Spagna ci può anche capire, perché c'è una stretta fiscale, di bilancio, ristrutturazione delle banche, eccetera. Figuriamoci in Grecia e Portogallo. Quindi diciamo, la reazione sociale a una austerità considerata eccessiva, anche se necessaria. Però in Francia, in Olanda e qui naturalmente il salto politico verso le elezioni europee è molto interessante. A questo proposito ricordiamo che le elezioni europee partecipa il livello di partecipazione alle elezioni europee è inferiore al 50%. Uh-huh. E tra l'altro ci sono altri dati, la Grecia ovviamente, il 50% dei greci si sentiva cittadino europeo, ora questa percentuale è scesa al 44%, in Portogallo invece così in controtendenza è aumentato, benché anche lì ci sia una fortissima crisi. Questi sono i dati, questa è una misura un po' del polso sul territorio. Antonio, invece, dal tuo osservatorio più o meno privilegiato, che è quello di Bruxelles, c'è consapevolezza di questo malumore? E al di là dei numeri, questi sentimenti, questi sentori arrivano dentro al palazzo? Ma sì, arrivano costantemente. Che poi il palazzo o i palazzi europei, che ricordiamo sempre sono tre, Commissione Europea, Parlamento e Consiglio, cioè i governi, che poi sappiano dare una risposta coerente, questo è un altro discorso. Teniamo presente però che se la Commissione Europea propone, il governo europeo dispone. Il Parlamento è co-legislatore, cioè su circa l'80% delle materie di legislazione europea ha voce in capitolo, vota sostanzialmente, Però poi se non c'è accordo con i governi si deve tornare indietro e fare tutto da capo, quasi tutto da capo. Quindi sì, quanti, è chiaro che in alcuni paesi, in Francia per esempio, è un'opinione, è una, c'è una pressione molto forte in senso non genericamente antieuropeo, ma di rivendicazione di uno spazio nazionale molto forte. Quindi è un tema pervasivo della politica europea, d'altra parte è così che si declinano anche gli interessi nazionali. Eccoci qua, insomma Antonio, l'ultima domanda invece è una domanda personale che amo sempre fare a chi lavora a Bruxelles. Ti diverti ancora a raccontarla questa Europa? Sono quasi al 12° anno e direi di sì. bisogna tenere presente che il lavoro di un giornalista a Bruxelles è un lavoro, diciamo, europeo, perché di affari europei ci occupiamo noi giornalisti qui, ma in realtà è un prolungamento molto diretto della politica, dell'economia, della finanza, del livello delle politiche sociali nazionale. Perché certo, appunto, se tra il 70 e l'80% delle leggi nazionali di ogni paese sono di derivazione europea, ci si rende conto di dove sta l'equilibrio del potere, almeno originario. Assolutamente. Grazie davvero ad Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Ci ritroveremo sicuramente qui in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao Antonio, buon sabato e buon lavoro. Grazie a voi. Europost-it. L'Unione in vignette. Che fine farà l'euro? L'austerity funzionerà? La crisi spazzerà via l'Europa? Ci sono molti modi di parlare di Unione Europea, ma la satira politica è tra i più efficaci. È questa l'idea alla base del concorso indetto dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che in collaborazione con Internazionale ha pensato di premiare la migliore vignetta politica dedicata all'Unione Europea pubblicata sulla stampa italiana. Ora si possono votare le vignette che vinceranno e che saranno premiate nel corso del Festival di Internazionale, che si terrà a Ferrara dal 4 ottobre 2013. Per vedere le vignette e votarle, internazionale.it/festival/concorso-vignette. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. La promozione delle competenze autobiografiche in aiuto alle donne che hanno subito violenza, questo è un progetto europeo lanciato e coordinato dalla Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, è un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Daphne 3, un progetto importante, un progetto anche molto innovativo. Si passa dallo scrivere, si passa dal narrare la propria storia, che coinvolge diversi network italiani, portoghesi e dalla Grecia. Ci è piaciuto molto, si è svolto questo workshop a inizio mese, però è un progetto che si sviluppa lungo diversi anni. Per capire bene il contenuto di questa iniziativa abbiamo invitato uno dei docenti. Diamo il benvenuto a Massimo Michele Greco. Ciao Massimo, benvenuto. Buongiorno. All'Altra Europa. Buongiorno a tutti e a tutte. A tutti e a tutte. Ci piace l'Europa quando diventa l'Europa delle possibilità, delle opportunità, sì. L'Europa che si mette insieme con progetti, lo ripeto, innovativi, profondi, trovando anche soluzioni alternative a quelli che sono dei drammi quotidiani, in questo caso le donne che hanno subito violenza. È un dramma poi trasversale, diciamo è un dramma globale, come ormai abbiamo imparato, visto che è un po' di tempo che si riesce a parlare di questa cosa anche nei mass media. È un dramma che riguarda tutti e tutte, e quindi è una trasversalità su cui si può ragionare in termini anche appunto di contrastare questo fenomeno e trovare anche soluzioni, un po' come abbiamo voluto fare noi, per ricostruire un po' una capacità, una possibilità di presa di parola che proprio l'abuso contro la donna da parte dell'uomo tende proprio a ledere, insomma, certo. Una delle cose che raccontano le donne vittime di violenza è proprio che uno degli attacchi non fisici, quindi anche più difficili forse da rappresentare, è proprio l'attacco alla propria possibilità di raccontarsi, di rappresentarsi, di parlare di sé, ma non di parlare della situazione negativa, proprio anche semplicemente di raccontarsi. Mm-hmm. Abbiamo fatto delle interviste, abbiamo iniziato il progetto facendo delle interviste a queste donne e loro ci hanno raccontato come il partner abusante attaccasse, per dire, proprio i diari personali, gli scritti personali che magari riguardavano semplicemente la propria vita quotidiana, eccetera, eccetera. C'è proprio una sensazione nella scrittura di intimità e questa sensazione di intimità e di preziosità viene subito attaccata, è uno dei punti in cui viene attaccato proprio dall'abusante. Massimo, ci stavi raccontando appunto del bisogno di esprimersi, della parola, del racconto che diventa che diventa elemento da cancellare, da calpestare, da annientare. E questa immagino che sia un filo conduttore che avete trovato anche nel vostro lavoro di networking con le altre realtà europee. Abbiamo raccolto come partnership di questo progetto, ci siamo noi della Libera Università dell'Autobiografia come centro, diciamo, di gravità metodologica, no? Quindi noi forniamo questi saperi, queste pratiche che sono state sviluppate ormai da più di 10 anni dal momento della fondazione di questa Libera Università, che si è tutta concentrata proprio sulle metodiche didattiche di pratica personale che sviluppano proprio questa capacità, questa possibilità e anche questo piacere, devo dire, di scrivere di sé, sì, in forma sia lunga, come dire, la propria autobiografia, oppure anche in forma piccola, oppure addirittura contestuale a certi elementi della vita personale, come possono essere il lavoro o altri aspetti, insomma. Però è interessante che poi attorno a questo abbiamo cercato, ci siamo riusciti, insomma, di entrare in connessione con quelli che poi i soggetti che facevano proprio il lavoro sul campo, quindi c'è per esempio nella provincia di Roma Solidea, che è l'istituzione che gestisce i centri antiviolenza, i centri di supporto della provincia di Roma, e quindi l'abbiamo coinvolta e a sua volta Solidea ha coinvolta l'associazione Differenza Donna, che è un'associazione presente da parecchi anni, insomma, che segue appunto questi centri. Poi abbiamo questo network greco, questo European Anti-Violence Network, che è un po' diciamo simile, nel senso un'associazione anche lì in forte relazione col segretariato generale per le pari opportunità del Ministero degli Interni della Grecia, che è un altro partner, insieme come dire, hanno coinvolto le singole operatrici che nei vari centri un po' sparsi per la Grecia, quindi anche territori non solo metropolitani, diciamo così, e fanno realizzano questi interventi di supporto per le donne. E poi c'è il Portogallo, che è entrato sempre con una cooperativa di intervento sociale che coordina, riunisce altre operatrici sempre un po' sparse nel Portogallo, e anche qui è interessante perché non stiamo solo nelle grandi metropoli tipo Roma, ma siamo anche nelle province, e il Portogallo appunto può essere una realtà molto interessante anche da interagire, non solo come nei termini appunto dei grossi centri urbani. E poi abbiamo l'Università di Beira Interior, che è questa che ci dà anche un po' un supporto, come dire, scientifico, nei termini anche dell'impatto sulla salute, sul benessere delle donne coinvolte di queste attività. E poi per ultimo, insomma, vorrei citare anche questa associazione Maschile Plurale, che è un'associazione italiana di uomini che si occupano di contrastare, di promuovere una riflessione maschile sul tema della violenza, perché poi è una chiave, secondo me, del successo, insomma, che l'Europa ci ha attribuito finanziandoci, anche un po' l'idea che non è una questione di donne la violenza maschile contro le donne, è una questione che deve riguardare uomini e donne, quindi bisogna sempre un po' portarsi dietro l'attenzione, la riflessione degli uomini anche nei termini di quello che sta succedendo da millenni, diciamo così. La bellezza della scrittura, contattarsi scrivendo di sé, sono alcuni dei temi del programma. Vi invito ad andare poi a leggere nel dettaglio quello che è accaduto, www.lua.it il sito. E Massimo, prima di salutarci, il progetto continua, ci sono altri appuntamenti in programma? Fatto questo workshop residenziale ad Anghiari, che è un posto anche stupendo, che invito a visitare in Toscana, molto bello, e abbiamo riunito tutte le operatrici, quindi è stato un momento grosso di multiculturale, diciamo così, con tutte le difficoltà anche del caso. E poi ci sono 3 mesi di learning on the job, cioè le operatrici, ciascuna nel suo contesto, sperimenterà degli interventi di scrittura, e poi torneremo io e Lucia Portis, sì, che è l'altra metodologa coinvolta, facendo dei workshop in giro per le 3 nazioni. Perfetto. Diciamo. E poi li seguiremo il prossimo anno invece proprio negli interventi, con una supervisione durante gli interventi veri e propri. Siamo, nel primo anno siamo in una fase di formazione, per cui siamo tutti studenti, diciamo così. E poi si passa alla fase applicativa. Alla realizzazione. Esatto. Ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa, quindi per continuare appunto a seguire questo importante progetto di narrazione. www.lua.it il sito. Grazie a Massimo. Grazie. Michele Greco, ciao, buon sabato. Vale. Ciao. I rumori che state ascoltando invece arrivano direttamente da Sofia. Siamo in Bulgaria, una Bulgaria calda, una Bulgaria dove da una quarantina di giorni ci sono proteste non chiare, proteste che nascono, ma che proteste anche nel segno della pace. Anche lì, come è successo in Turchia, si è visto un pianoforte suonare per accompagnare i manifestanti, proteste però che sono sfociate anche in atti di violenza un paio di notti fa. Per capire quello che sta accadendo in Bulgaria, in questa Bulgaria che di fronte all'Europa sta tentando un po' di raccontarsi, ma anche un po' probabilmente di nascondersi, c'è con noi Francesco Martino, che si trova proprio là e sta scrivendo ottimi reportage per Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Francesco, ben ritrovato. Buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Si può capire, si può spiegare quello che sta accadendo realmente oggi in Bulgaria? Sì, si può spiegare, si può capire, anche se naturalmente tutti gli eventi particolarmente complessi, come proteste del tipo di quelle che stanno scuotendo in questo momento la Bulgaria, appunto, nascono sempre molti aspetti e molti punti poco chiari. In questo momento direi che la protesta in Turchia è soprattutto il frutto della crisi di rappresentatività che l'elite politica del paese ha nei confronti della popolazione. Questa è una protesta che nasce dalla richiesta forte dei cittadini bulgari di avere da parte delle istituzioni che li rappresentano responsabilità, e in qualche modo potremmo dire che è una protesta che vuole ridurre lo iato tra la forma dell'essere europei e la sostanza. Sì, perché formalmente il governo non sta facendo nulla di sbagliato o comunque non sta contrastando quelle che sono le direttive dell'Unione, però di fatto invece ci sono movimenti ben diversi nella realtà. Sì, la Bulgaria non sta violando nessuna delle regole formali dell'Unione, proprio per quello parlavo però della riduzione tra lo iato tra la forma e la sostanza, nel senso che l'accusa che i cittadini bulgari che scendono in piazza fanno nei confronti del proprio governo è quello in qualche modo di essere dominato da interessi non visibili da parte del pubblico e che non rispondono agli interessi della società nel suo complesso, ma che sono invece interessi di tipo oligarchico che vengono in qualche modo gestiti dietro le quinte e da cui i cittadini vengono tagliati fuori. Il motivo scatenante della protesta, che è stata la nomina poi revocata di un discusso parlamentare a capo dei nuovi servizi segreti, è stato in qualche modo il simbolo di questo modo di fare politica e di gestire il potere in Bulgaria, senza tener minimamente conto di quello che è il sentire popolare. Se si aggiunge il fatto che l'attuale Parlamento ha una maggioranza estremamente risicata e quindi c'è un problema di rappresentatività politica. Diciamo che la situazione era abbastanza esplosiva per portare poi a queste proteste che ormai da un mese e mezzo scuotono il paese, proteste sicuramente nuove sia per la durata ma anche per la loro forma. Certo. Francesco, tu hai fotografato questo pianoforte che accompagnava i manifestanti un po' come immagine significativa anche di quello che è lo spirito delle manifestazioni, benché ci sia stato anche il sangue l'altra notte. È possibile prevedere quello che accadrà, nel senso qual è il polso che stai tastando tra i manifestanti? Ma il governo ha risposto alla richiesta della piazza, che è quella delle dimissioni, con un secco no, e al momento non si vede una possibile via d'uscita, anche perché anche i sondaggi d'opinione non lasciano trasparire una possibile alternativa politica all'attuale governo, che è un governo di centrosinistra piuttosto anomalo, anche perché deve basarsi sul supporto esterno di un partito xenofobo che si chiama Attacca, perché altrimenti non ha i numeri in Parlamento. Detto questo, naturalmente è più facile individuare le cose contro cui i cittadini bulgari si battono che non le possibili prospettive per un domani. Diciamo che la richiesta, una delle richieste concrete che i cittadini vogliono per provare a far ripartire il sistema politico nel proprio complesso, è una riforma del sistema elettorale che possa dare la possibilità a forze nuove di entrare in Parlamento e quindi di poter cambiare dall'interno l'attuale sistema politico. Sinceramente però in questa fase è molto difficile intravedere questa futuribile nuova formazione o nuove formazioni in grado di dare, per così dire, di portare aria nuova in quello che è un sistema ormai stabilizzatosi da un paio di decenni. Grazie davvero a Francesco Martino, scusami, balcanicaucaso.org, ricordiamo il portale dove poter leggere e trovare tutti i reportage dalla Bulgaria. Ciao Francesco, buon lavoro. Un saluto. Il rebetico, le taverne greche, i racconti, i volti delle persone, quello che state ascoltando è un breve estratto di In debito, il film è scritto da Vinicio Capossela e Andrea Segre, che verrà presentato in anteprima mondiale al 66esimo festival del film di Locarno. In debito racconta una crisi che non è solo una crisi finanziaria, ma è una crisi culturale. Racconta un paese, racconta un popolo, ma racconta noi stessi. E siamo molto felici di poter ospitare qua, all'Altra Europa, Vinicio Capossela e Andrea Segre. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao Vinicio, buon sabato. Ciao. Buongiorno. Eccoci qua, ci siamo in debito. Voi avete percorso le strade della Grecia nell'anno del tracollo finanziario. L'avete raccontato con l'occhio e con il ritmo soprattutto del rebetico. Vinicio, come mai la scelta di raccontare una nazione, una cultura, una crisi attraverso una musica? Ma io non volevo raccontare una nazione, una crisi, credo che di un paese. Credo che la Grecia abbia da sempre un carattere emblematico e universale, ci parli dell'uomo in sé, quindi è come parlare del momento che si sta attraversando l'uomo d'Occidente a mezzo di accompagnati da una musica, in un paese che, insomma, che ha un alto valore mitico e simbolico. E la musica è qualcosa che da sempre ci tiene molto vicini all'uomo. Si parla tanto di debiti e di crediti, ultimamente della Grecia si è parlato soprattutto per questo, no? Però si parla di debiti in astratto, mentre invece quelli che si maturano nella vita vengono ben raccontati dalle persone, dagli uomini, soprattutto a mezzo della musica. Questa musica particolarmente, che è una musica che ha proprio come particolarità il fatto di rimanere molto attaccata alla verità, di non farsi timore di lasciare fuori le cose. Quindi è sempre come un rimettere al centro l'uomo rispetto alle convenzioni che lo circondano. Ecco, ma è una musica che guarda al passato o è una musica attuale, una musica proiettata comunque ancora verso il futuro? E questo ti chiedo se le persone che hai incontrato sono persone nostalgiche di quello che c'era prima della crisi e quindi rassegnate, o hai trovato stimoli a guardare avanti? Sono partito, la mia domanda amando questa musica era semplicemente questa: il rebetico è nato da un momento di crisi, che è una parola greca e che significa così, scelta, separazione, separare le cose, da una separazione che è stata quella della crisi del 22, insomma, quindi sono canzoni che hanno 80, 70 anni e che però mantengono intatto vengono cantate e cose attualmente. Volevo capire che importanza avesse una musica come questa in un altro momento, diciamo, di separazione, di scelta, di crisi. In generale non è un'operazione di recupero nostalgico di un passato, è semplicemente che a volte la musica è sempre qualcosa che si canta per farsi coraggio, perché capisci sempre che c'è qualcuno che ha avuto problemi anche prima di te, e queste canzoni che hanno questa verità dietro mantengono un'attualità vivissima, per cui è effettivamente così, ci sono molti posti dove si suona questo tipo di musica, non con un fare nostalgico, non è un'operazione di recupero di una tradizione, semplicemente una musica che tiene intatto la sua caratteristica principale, che è quella dell'anticonformismo, della quasi un'anarchia individuale, che una ribellione senza farsi portavoce di altro, mettere se stessi e le proprie scelte al centro della propria vita. Questo credo che è il messaggio, più almeno quello che ha sempre dato a me questa musica. Certo. Andrea, sai che noi parliamo di Europa, che rapporto avete colto tra la Grecia, tra l'osteria, tra la taverna, tra proprio quel microcosmo e quella dimensione grande che tanto ha fatto arrabbiare anche i greci, che è l'Europa, quasi come concezione, quasi come dimensione esterna. Avete colto dei link, avete colto delle barriere? Una delle frasi che ci piacciono di più del film è quando Padelis, che è un musicista di rebetico e gestore di taverna di Salonicco, dice che la taverna è un po' la loro barricata. Mm-hmm. Ed è anche per noi un po' una barricata. È uno spazio, la taverna, così come lo è in parte in alcune zone d'Italia ancora, ad esempio nella mia Chioggia, l'osteria, o in altri luoghi d'Italia, però in Grecia molto di più l'ho visto, l'abbiamo vissuto e sentito. La taverna è proprio uno spazio in cui si cerca di porre una barricata, un ostacolo all'inevitabile destino di omologazione del cittadino che diventa consumatore. Nella taverna non c'è il consumatore X di un posto in franchising qualsiasi che puoi trovare nel mondo del fast food omologato, ma c'è un cittadino che ha quel luogo come suo luogo di scelta, che va in quella taverna e non in un'altra, così come un pescatore di Chioggia va in un'osteria e non in un'altra, e perché quello è un luogo che fa parte della sua identità, dove costruisce un'identità e non dove la annulla, come invece l'omologazione del consumo sembra aver indicato come unico destino al cittadino europeo negli ultimi anni. Certo. Vinicio, qual è l'immagine, non ti chiedo il suono, ma qual è l'immagine che più porti con te di questa esperienza? Beh, intanto, tornando a Pandelis, è vero che la taverna è una barricata contro il mondo, però tornando alla domanda di prima, come viene percepita l'Europa, ad esempio questo signore risponde: quando ti mettono l'IVA al 21% significa sostanzialmente chiudi, e questo perché questi esercizi sono cose che sì, forse servono al piccolo, all'uomo, ma non fanno parte degli interessi dell'Europa, non fanno parte degli interessi delle banche. Quello che mi è sembrato di percepire è sempre è quello su cui abbiamo cercato di lavorare. Il film non è soltanto, la musica è uno strumento, ma non tanto il fine, no? Una cosa che ci accompagna a comprendere bene un po' dove stiamo andando, no? Di cosa scegliamo di essere fatti, soprattutto in un momento appunto di crisi, cioè un momento in cui ci si obbliga a scegliere. Quindi il fatto, per esempio, che questi discorsi avvengano in questo tipo di luogo, e che la taverna di fronte alla musica sia un po' come di fronte alla morte o allo stadio, sia tutti un po' uguali, sia tutti, è una cosa che un po' annulla le differenze sociali, e l'uomo viene un po' più messo a nudo, no? Di fronte proprio alle cose sostanziali. E la musica è un modo per mettere a nudo l'uomo, lo mette, questa musica soprattutto. E a proposito di questo, una delle più belle immagini, ho un ragazzino di 15 anni che in un'isola bellissima che si chiama Icaria, in un seminario di musicisti, quando apprendeva a suonare il buzzucchi da questo grande musicista che si chiama Manolis Papos, e quando gli abbiamo chiesto: ma tu perché a 15 anni ascolti una musica che parla così tanto di amore, di dolore, di morte? E allora lui ha risposto: perché mi parla della vita che devo ancora vivere. E questo secondo me è un bel messaggio, nel senso che tutti quanti abbiamo ancora una vita che dobbiamo ancora vivere, e dobbiamo fare in modo che sia quella che scegliamo noi di vivere, non quella che in qualche modo pensiamo di aver scelto, che in realtà è stata praticamente messa sui binari da altre cose. E questo è l'invito maggiore, questa è la scelta, la crisi a cui ci riferiamo. Ministro, tu sei uomo delle contaminazioni, ti piace, sei curioso, sei spugna, ti piace assorbire. Tu ci credi nell'Europa? È un concetto che senti tuo? Perché potrebbe essere anche veramente una sorta di dichiarazione d'amore all'Europa, questo film, a un'Europa diversa, un'Europa che si basa sulla cultura, sulle tradizioni, sull'uomo. C'è anche questa lettura? Intanto Europa è una parola greca. Una volta uno ci ha risposto: ma come può l'Europa farci questo? Europa è una parola greca. Ora, senza stare a nel... Io credo fermamente in questo, e la cosa che ferisce di più è invece... Non si può fare un'unione che un'unione di banche in cui ogni nazione è costretta a comprarsi la propria moneta. Questo, cioè, non può essere solo questo, non può essere soltanto che Europa significhi di smettere le produzioni, che ne so, del formaggio di capra come lo fa un pastore, perché c'è una norma europea che l'Europa dovrebbe essere un'unione, non un insieme di costrizioni. Questo secondo me è quello che siamo chiamati a fare noi come cittadini europei, e non è possibile guardare con indifferenza a uno Stato essenziale, no? Membro, che è la matrice anche culturale, così che pian piano scivola in una situazione in cui un partito neonazista è al 14%, perché le politiche finanziarie comportano anche questo come conseguenza. Le armi finanziarie di distruzione di massa, come le ha chiamate uno appunto del film. Complimenti davvero, siamo molto curiosi di vedere il film. Ricordiamolo, l'anteprima sarà il Festival del Film di Locarno il 7 agosto, in debito, poi in autunno uscirà ovviamente anche al cinema. Ricordiamo quindi che l'anteprima mondiale di In debito, il film di Vinicio Capossele e Andrea Segre, sarà il 7 agosto al Festival del Film di Locarno. Grazie Andrea, grazie Vinicio, e complimenti per il lavoro che avete fatto. Ciao. Grazie a te. Ebro fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine di dolore, pieno fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine di dolore. Ci salutiamo quindi al ritmo del Rebetico. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a Margherita Ina che con me ha scritto la puntata, Benedetta Acri oggi in assistenza, e Carmelo Lauricella alla parte tecnica. L'appuntamento è sabato prossimo, quando daremo il via a 4 puntate speciali legate al muoversi in Europa per turismo, per lavoro, per volontariato e per scuola. 4 puntate per studiare, 4 puntate con tante opportunità, tante possibilità. Questa è l'Europa che ci piace, perché l'Europa è di più. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.